Sisterhood is Blooming, puntata numero 6. Yes. Puntata finale di questa stagione. Doppio yes. Doppio yes. E puntata maledetta perché, perché ci sono state un po' di difficoltà tecniche, ma ci fa piacere stare con voi e ci fa piacere farvi ascoltare un po' della musica che questa settimana abbiamo ascoltato per voi. Quindi intanto vi ricordo i nostri riferimenti: 06 49 17 50, se volete trillarci qui in diretta per farci sentire che vi piace quello che state ascoltando, www.twowomenshow.wordpress.com, che è il nostro blog, dove trovate la settimana prossima il podcast della puntata, la playlist e tutto quello che vi riusciamo a far scaricare. La signorina buonasera, questa sera ero carica. Bella carica. Quindi Donna Sonica e la music partono. Io non ho la scaletta mia, insomma, c'era un po', sì, un po' così in mente, quindi non ho neanche i miei appuntini che mi ero preparata per raccontarvi un po' di cose, però insomma quello che mi ricordo è che partiamo con Lila Downs. Adoro Lila e non Laila, perché lei insomma si fa chiamare con la I messicana, giustamente, che è una cantante metà americana e metà, il padre era del Minnesota e metà messicana, la madre era una cantante cabarettista messicana che insomma è cresciuta sostanzialmente in America, però poi è voluta, dopo essersi laureata in canto e antropologia, in voce e antropologia anzi, è voluta ritornare in Messico a recuperare parte della sua cultura, delle sue origini, e quindi è tornata nella patria della madre, ha cominciato a studiare la musica del suo paese e ha cominciato a cantare la musica tradizionale. Quindi insomma, senza stare a fare troppi giri di parole, intanto vi faccio ascoltare questo pezzo, che è un pezzo di un autore messicano degli inizi della prima metà del Novecento, che lei ha ripreso. Lei è Lila Downs e il pezzo si chiama Naila. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. se ne parte il cuore del sonno. Una, ti posso fare una domanda? Dimmi, cara. Ma queste donne sudamericane sempre ubriache sono? Perché tutte le storie se vanno a ubriacare... Purtroppo non moltissime sono autrici, quindi insomma gli autori di alta, come anche in questo caso, sono uomini e sai che insomma hanno tutta sta cosa del se gli parte il corazon. Se gli parte il corazon, sanna mambriaca. Allora, la music. Allora, no, io passo a tutt'altro genere ed è una dedica per una persona che me l'ha chiesta già da un paio di settimane, la mia amica Chiara, che abita vicino a Venezia ed è una bravissima fotografa, mi ha chiesto Marina and the Diamonds. Io vi darò un po' di informazioni riguardo a Marina. Marina è Marina Diamandis, nata in Galles da padre greco e madre gallese. Lei suona pianoforte, tastiere, glockenspiel, che è un mini vibrafono, il Casio, le vecchie tastiere di Casio e l'organo. E lei incide per... dimmi. Tutto quello che ha tasti, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Sì. Però adesso non so, ma nelle biografie mettono che suonano pure le pentole della cucina, così, perché fa figo, si pensa. Il suo nome Marina and the Diamonds è dato da un po' dal cognome Diamandis, ma lei ama dire che è dedicato ai suoi fan. Lei dice: io sono Marina e voi siete diamanti. E lei incide per la 679 Record, che è di Londra, che è un'etichetta indipendente che ha dei personaggi molto interessanti. Ve ne farò ascoltare anche altri più tardi. Io vi faccio sentire dal suo primo album del 2010, The Family Jewels, il pezzo che si intitola I'm Not a Robot. E a me ricorda un po' Regina Spector e a tratti gli ABBA, diciamo che è molto eclettica e fresca. E questo è per Chiara di Venezia, Chiara Segatel. Se cercate una brava fotografa, cercate chiarasegatel.com. Marina and the Diamonds è per te. You've been acting awful tough lately, smoking a lot of cigarettes lately, but inside it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be on top. Better to be hated than loved, loved, loved for what you're not. You're vulnerable, you're vulnerable. You are not a robot. You're lovable, so lovable. But you're just trouble. Guess what? La Marina, volevo solo dire un'ultima cosa, che come Ida Maria, che abbiamo ascoltato settimana scorsa, soffre di sinestesia. In questo caso lei vede le note musicali e i giorni della settimana associati con colori differenti. Non so nello specifico, glielo chiederemo, però deve essere interessante come anomalia. Ci vediamo rosso. Tipo dici lunedì verde. Questa sinestesia non è tanto rara, insomma, io non ne avevo mai sentito parlare, però insomma già è la seconda artista che ne soffre. Allora, io nella mia scaletta, che non c'è, avevo Riat, che è un'artista molto particolare, molto interessante. Lei fa elettronica sperimentale, suona un po' di tutto, si costruisce anche, o comunque si customizza molti degli strumenti che utilizza. Il nome è R-Y-A-T, Riat. Vanta un sacco di belle collaborazioni, perché fa anche delle produzioni, in particolare con un personaggio che insomma in qualche modo abbiamo anche trattato, perché mettendo Ursula Raker e parlando di Ursula Raker, lei ha lavorato con Kim Britt, che insomma è un amicone di Ursula Raker, anche uno che gli ha prodotto molte cose, con cui ha lavorato molto spesso. Infatti Kim Britt insomma dice di Riat che è un artista assolutamente da tenere d'occhio nei prossimi anni. Ha fatto un paio di EP, quindi non c'è tantissima roba in giro, però sul suo MySpace trovate non solo i pezzi, insomma, tra cui quello che vi facciamo ascoltare, ma anche il link al suo sito, che è molto carino. Ci sono molte delle cose che lei ha fatto, quindi sicuramente quello che avevo messo nei miei appunti che non ho più. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Riat. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama The Gate. Bel lavoro di suoni, notevole. Sì, tutto da sola poi. Sì. Io invece ti parlo di una cosa, di una persona, un animale, no, di una musicista, la regina dell'antifolk. Yeah. Regina Spektor. Ecco. Tu mi direi, ha fatto un disco nuovo Regina Spektor? Ebbene sì, l'ha fatto il 16 di aprile, però non sono mai riuscita a parlarne. In realtà ha fatto proprio un vinile. Apposta per il Record Store Day, noi siamo andate qua al Pigneto a acquistare un po' di CD. Lei ha fatto questo vinile molto carino, che si trovano un po' di foto su internet, ed è di un color celeste pastello, molto anni 80, dove ha messo dei pezzi che stavano nella special edition del suo ultimo album di pezzi originali. E insomma è un po' di live, vabbè, un po' di note biografiche di Regina Spektor, russa naturalizzata americana, pianista classica, un po' come Nina Simone. Lei voleva fare la musica classica, poi comincia a capire che le piace l'hip hop, le piace il teatro canzone, comincia a comporre a 16 anni e diventa famosa, insomma ormai sta al nono album. E niente, quindi ci piace perché è divertente, sì, poi live. Questi mugoli, questo modo di usare la voce particolare, oltre alla musica che è figa, ma poi è divertente, lei è live, cioè si diverte un sacco, sì, sì. È una cosa bella. Io insomma ne voglio parlare anche facendo una sorta di macumba pro concerto, perché non ho mai visto Regina Spektor, non vedo l'ora di vederla, perché poi ho visto un sacco di video ed è anche una pianista strepitosa, cioè ha le mani che vanno da sole, insomma, notevole. Io vi faccio sentire questo pezzo di Regina che è Time Is All Around. La cosa carina è che l'ho preso proprio dal vinile, quindi all'inizio si sente lo scricchiolio del vinile, quindi insomma ci fa piacere. Allora, Regina Spektor, Time Is All Around. Avete sentita la puntina? Regina Spektor, inconfondibile, devo dire. Eh sì. E adesso io invece faccio ascoltare un duo di Oslo, e tutto quello che mi ricordo è questo. Loro si chiamano Thelma & Clyde. No, vi posso dire insomma che hanno fatto questo album che si chiama White Line, che è uscito alla fine del 2010, inizio di quest'anno, insomma a cavallo tra i due anni. Loro sono molto interessanti. Molti dei blog che io seguo per insomma farmi consigliare da persone che hanno gusti simili ai miei un po' di musica interessante, dicono questa è una band da tenere d'occhio. Quindi insomma, bando alle ciance, anche perché non so cosa dirvi, non ho più i miei appuntini. Io vi faccio ascoltare Thelma & Clyde e il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama In Between. Thelma & Clyde. Thelma & Clyde. Fra Thelma & Louise e Bonnie & Clyde. Non male sì. come nome. Sì, sì. Io adesso invece vi parlo di un altro nome, She and Him. Quanti ce n'è, no? Di nomi così. Loro sono un duo indie folk composti da. Sono difficilissimi questi nomi stasera. Zoe Deschanel e M. Ward. E lei suona pianoforte e ukulele, che va così tanto di moda appunto nelle formazioni indie folk, e lui si occupa della produzione e di suonare l'altra chitarra. Hanno fatto due album, si intitolano Volume 1 e Volume 2. C'hanno fantasia i ragazzi, però nella loro semplicità sono molto d'impatto. Loro amano lo stile tipo le Ronettes anni 60, quindi questo tipo di canzone molto retro, e incidono per la Merge Records, che è tra l'altro l'etichetta dei Y-Hawk, di Tracy Thorn, quindi insomma di personaggi alternativi e interessanti. E una cosa carina è che in un loro video hanno utilizzato Tilly and the Wall, che è un gruppo indie pop, che sono famosi per avere come batterista una ballerina di tip tap. Che tip tappa mentre esatto, che tip tappa e fa da batteria. Io vi faccio ascoltare appunto questo pezzo che posso è stato. Dire una cosa? Sì. M-Word, che è diciamo appunto la parte maschile di questo duo, sì, è anche insomma un musicista che ha una bella carriera da solista. Io mi ricordo che il suo primo album si chiamava tipo The Transfiguration of Vincent. Insomma, lui è un musicista folk molto interessante, e anche lui, anche insomma da solo, ha una bella carriera alle spalle. Quindi insomma è bello poi che abbia cercato lei per creare qualcos'altro rispetto sì. alla sua musica. Sì, sì, questo è completamente retro. Infatti ti faccio sentire questo, il singolo che è stato Sweet Darling, che la prima volta che l'ho sentito pensavo fosse una cover di un brano anni 60, in realtà invece è proprio un pezzo loro. Loro sono Shein e il brano è Sweet Darling. Sembra un po' The Locomotion questi pezzi qua. Yeah. Vabbè, io nella mia scaletta immaginaria vi propongo un artista che insomma a me piace moltissimo, insomma soprattutto il suo album del 2009 che si chiama Jewelry. Insomma me lo sono praticamente consumato. L'artista in questione è Mikachu, che si esibisce con Mikachu and the Shapes, sì, insomma, che ci piace. Vi ho tormentate per un anno intero. E intanto Mikachu è insomma Mika Levi, questa giovanissima artista inglese che insomma è molto interessante. Anche lei di base suona la chitarra, però insomma si customizza e si inventa un po' di strumenti, quindi insomma li fa suonare in maniera un po' più divertente, più giocosa. E dall'inizio di quest'anno hanno cominciato a esibirsi di Mikachu and the Shapes con la London Sinfonietta, quindi hanno registrato un album dal vivo che si chiama Chopped and Screwed, questi me li ricordo tutti a memoria, come dicevo prima, i nomi degli album. E insomma, io vi faccio ascoltare un pezzo che io adoravo e che adoro ancora, che si chiama Golden Phone, che viene dal vecchio album che è stato inciso per la Rough Trade Records, che è appunto un'etichetta indipendente inglese. E intanto insomma vi dico che Mikachu sarà in giro in diversi festival in Europa. Non ho le date, quindi non vi posso suggerire, però vi assicuro che tra i vari festival interessanti che ci sono, alcuni anche un po' meno noti, la troverete. Quindi Mikachu and the Shapes, il pezzo è Golden Phone. Così qua, Mikachu è stata il mio tormentone, penso, per un anno. Vi ho massacrato. Sì. mica Levi, Mica Levi, giovanissima peraltro, quindi insomma, se non la conoscete, scaricatevi le sue cosine. Sì. Allora, io invece vi parlo di tutt'altro, vi parlo del Vermilion Lies, sempre suggerite da Anna e Karin, quelle dell'Alphabet Bed and Breakfast di Bologna. E sono due signorine molto interessanti che fanno questo genere musicale che loro amano chiamare Sister Cabaret. E si chiamano Kim, Bock Binder, tu lo sai dire meglio? Veramente no, conosco il nome della band ma non conosco i loro nomi. Ok, e Bock Binder. Praticamente loro hanno questo duo dove utilizzano elementi di circo, pianoforti giocattolo, macchine da scrivere, tirano tutto questo fuori da una scatola e cominciano il loro live. E il primo album è stato inciso per la Small Tribe Records, e invece il secondo del 2008 l'hanno autoprodotto loro. Quello che loro amano molto dire è il fatto che hanno anche dei progetti solisti, quindi quando sono insieme sono le Vermilion Lies, però continuano le loro carriere soliste e si aiutano anche a vicenda per le loro carriere soliste. Una cosa interessante dei loro tour è che loro fanno il tour girando con un furgone che funziona a biodiesel, che è un diesel da fonti rinnovabili, oli vegetali, quindi niente petrolio, quindi vanno a olio di cozza. Esatto. Non lo so da dove lo pigliano, però fanno questo e utilizzano per il packaging soltanto inchiostri vegetali, quindi sono molto attente. Sisterhood is Blooming vi propone non solo artiste donne, diciamo, indipendenti eccetera eccetera, ma anche green, quindi più esatto. Di questo sinceramente non sappiamo cosa. Esatto, loro assomigliano molto alle Dresden Dolls, come sentirete, e io vi faccio ascoltare uno dei primi singoli che si chiama Circus Apocalypse. Loro sono le Vermilion Lies. Non male. Che dici? Interessanti, sì, queste sì. Signorine di Oakland. A Oakland possiamo avere un furgoncino biodiesel. E allora io invece vi dico, vi ricordo che sappiate che ci sono le cocolose in giro e poi non dite che non ve l'ho detto, che stanno appunto che stanno insomma facendo un po' di festival in Europa. E io volevo parlare al volo, prima di passare al gruppo che volevo presentare, di questo festival che c'è a luglio in Slovacchia, che non è esattamente insomma il posto dove normalmente uno pensa. È diventato famoso quello insomma di Budapest, però insomma ungherese, però non ci sono molti festival in posti insomma un po' meno conosciuti. C'è il festival di Reading, insomma tutti più o meno ci sono andati una volta nella vita. E invece questo festival ha una bellissima line-up, anche molto particolare, perché hanno un palco per la musica tradizionale, c'è per esempio Susanna Baca, insomma sto leggendo. Esatto, wow. C'è anche Lilla Downs che abbiamo messo come primo pezzo stasera, ma insomma ci sono anche i Lamb, Imogen Heap, insomma altri gruppi, Santi Gold, insomma è una bella selezione sia di musica indie, elettronica, sia insomma di altro, quindi mi sembra carino. Quindi se i primi di luglio non sapete che fare, andate in Slovacchia, wow, per il Pohoda Festival, insomma se lo cercate su Google lo trovate subito. E io intanto, parlando di Cocorose e dei festival in giro, voglio farvi ascoltare questa band. È raro che faccio sentire musica fatta da italiani, perché in genere semplicemente non mi piace, non è insomma un pregiudizio, ma è che non mi piace proprio, io ci provo ad ascoltarli. E invece questi ragazzi che sono in concerto aprono per le Cocorose, quindi insomma per questo li ho notati. sono molto interessanti. Sono un duo giovanissimo, loro si sono conosciuti al liceo, quindi hanno cominciato a suonare insieme da molto piccoli. Adesso hanno attirato l'attenzione di un bel giro di musicisti e di produttori indipendenti. Hanno fatto un paio di EP e quindi vi faccio ascoltare da Yoris Eyes, che è appunto il nome della band, il pezzo che si chiama The Boat. Sinks. Do you know how to speak? Do you know how to inform all the passengers? They're going to hell. Mamma mia, ero in trippata sul finale, sì, ero in trance, infatti sì, molto molto bravi. Insomma, poi mi faceva piacere di mettere una voce di un ragazzo che è molto femminile, insomma, e Sofia, che è l'altra componente, sì, del duo, che suona le tastiere, insomma, e che fa tutta la parte elettronica, mi sembra molto molto interessante. Sì, molto. Io adesso invece vi parlo anche qua col desiderio di attirare questa artista qua in Italia, perché la voglio vedere, e per salutare anche Luisa Antunes, che ce l'ha fatta conoscere. Lei è Lone Lady, Lone Lady in realtà è Julie Campbell, che è una ragazza di Manchester, un po' assomiglia un po' a Katie Lang, con i capelli corti davanti, insomma tutte queste foto, la faccia in penombra così. Lei fa questo genere musicale che viene definito post-punk, e anche se non è appunto il genere che ascolto e prediligo, mi ha catturata per la purezza del suono, per prego dimmi pure. No, l'abbiamo messa spesso in giro, infatti, nelle serate, e continuavo a cercare, la volevo mettere, però anche, insomma, se avesse fatto un altro disco, però a un certo punto ce l'ho fatta più, la volevo mettere, insomma, anche per ringraziare Luisa, insomma, che ce l'ha fatta scoprire. E infatti vi faccio ascoltare il pezzo che l'ha resa famosa, il singolo, che è Nerve Up, che è anche il titolo dell'album. Lei è Lone Lady e buon ascolto. Got the nerve. Lady, la reginetta del loop. Sì, mamma mia. Ha luppato il loop, riluppato il loop per tutte, fare questo pezzo. Sì, notine ossessive, però, tutte suonate però, si sentiva. Super easy, sì. Bello, divertente e che prende. Io intanto, è il mio ultimo pezzo di questa stagione, quindi insomma... E in qualche modo vi faccio sentire una cosa vecchia che è anche insomma un preludio a una cosa nuova, i Portishead, che sono insomma una band, non vi sto a dire chi sono, chi non sono, se non lo sapete non ve lo meritate. Quelli del cartoncino Bristol. Non fa niente. E insomma che sono appunto questo, questa band fantastica inglese, hanno fatto di tutto, hanno suonato di tutto, hanno fatto la storia del trip hop britannico e insomma intanto vi faccio ascoltare un pezzo che loro hanno inciso appositamente per Amnesty International, appunto per una insomma una collezione di soldi, come si dovrebbe, sì, in italiano fundraising, perché insomma se no non so come si dovrebbe tradurre, e quindi Amnesty International hanno regalato questo pezzo che è molto bello e che risale a 2 anni fa. So che stanno lavorando a un progetto nuovo, intanto li potete sentire anche loro live in giro per i festival estivi qui in Europa e molto insomma del materiale che stanno preparando, quindi sarà possibile ascoltarlo live insomma in anteprima, quindi vi consiglio, se potete, se avete tempo e disponibilità economica e voglia, di andarveli a sentire, magari, di fare un bel festival dove buttarvi per 3-4 giorni a fare punk a bestia con la vostra tendina e insomma a nutrirvi di musica e di gente a cui piace la musica. Io vi faccio ascoltare come ultimo pezzo mio di Sister Who Is Blooming e Portishead, il pezzo si chiama Chase the Tear. Thank you. Eh sì, questo pezzo finisce così, finisce proprio così, eh. Infatti anche io quando l'ho preso la prima volta ho detto oddio, perché è rotto. No, nel video si capisce perché, perché a un certo punto sì, lei si sveglia, diciamo, da questo trippone. Sì. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito questo pezzo era Donna Summer. Ah, un po' di il groove di I Feel Love. Sì, perché c'era questo, sì, questo insomma trippone sempre uguale di base, e poi insomma una che canta. È lei che sì, che sì, sta sulle nuvole, sì, insomma, con la melodia, sì. E bravi Portishead. Io concludo il mio ultimo pezzo. Sono un duo di Leeds, dello Yorkshire, due ragazze che si sono conosciute in un college di danza e incidono per la 679 Recording, che è la stessa di Diamanda and the Diamonds. Loro si chiamano Oh My, prendono il loro nome da Oops Oh My, un pezzo di Missy Elliott, le signorine in questione. Niente male, eh, dai. Sì, loro si chiamano Alex e Jade, sono al loro primo singolo e loro fanno le DJ, fanno DJ set, lavorano come DJ per le feste e suoneranno al London Pride del 3 luglio, quindi chi sarà a Londra le può vedere sia come DJ che come cantanti. Io vi faccio ascoltare il loro primo singolo, si chiama Run This Town, loro sono Oh My. È partita la gara per ricordarsi a che assomiglia questo pezzo. A che assomiglia cosa? Allora, niente, no, Sister Rose Blooming chiude i battenti per quest'anno, lo possiamo dire con la puntata numero 6. Sì. Ci rivedremo, spero, a settembre. Prima che me lo dimentichi, a seguire c'è il nostro amico Morfire. Ci dimentichiamo sempre di annunciare, invece sta per arrivare, quindi quelli che stanno aspettando di seguirlo, attendete qualche altro minuto. Noi intanto vi salutiamo per quest'anno. Che vi dobbiamo dire? www.twomenshow.wordpress.com per il podcast, playlist e altre cose che faremo durante l'estate. Se volete seguirci su Twitter, Sisters on Air, Facebook Sisters is Blooming, se insomma è questo che vi interessa, se no saluti e baci. Saluti e baci. È stato bello, ci siamo divertite e insomma, con cosa chiudiamo? Chiudiamo con il pezzo di chiusura con cui abbiamo cominciato, senti che discorso lo zigogolato, che è Used to Be dei Beach House, così dall'anno prossimo cambiamo tutto, sigla iniziale, sigla finale, cambiamo tutto. Cambiamo tutto, dall'anno prossimo cambiamo tutto. Sisters is Blooming vi saluta. Ciao, buon'estate.